Buonasera, vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Claudio Augusta per questa serata in collaborazione con l'Associazione Scrittori. È la prima serata di una serie che organizzeremo da qui fino a maggio, il mercoledì. Il mercoledì alternati ci sono anche poi i nostri incontri con i gruppi di lettura. Abbiamo un gruppo di lettura localmente che è dedicato alla narrativa locale, oppure il gruppo di lettura Tutti i Saggi che è dedicato appunto alla saggistica. E se siete interessati basta che contattiate la biblioteca e vi diamo maggiori informazioni, insomma. E vi ricordo poi il prossimo appuntamento, che sarà lunedì prossimo 27 con il testamento di Josef Mariotti con l'autore Leonardo Coletti. E per il momento appunto lascio la parola all'autrice Cristina Queller sì. E a Italo Ghirigato che modera la serata. Buona serata. Grazie. Bene, allora benvenute, benvenuto a questo incontro su un libro che è davvero molto particolare, molto interessante, molto brioso, direi, insomma, che man mano che lo si legge si è effettivamente coinvolti nella trama, ma non solo nella trama, anche nella scrittura, come vedremo, insomma. Allora, Cristina Queller. Allora, si dice che, almeno Proust, diceva che l'io dello scrittore non è quando scrive, ma è nella sua figura sociale. Allora, siccome tu socialmente sei straimpegnata, praticamente, insomma, noi non ti conosceremo mai da un punto di vista sociale, e finalmente invece oggi ti conosciamo per quella che veramente sei. Perché Cristina Queller è veramente impegnata su tanti fronti, devo dire, ha tutta la mia ammirazione. Intanto è assessora al comune di Romeno per alla cultura e rapporti con l'associazione. E i rapporti con le associazioni, tra l'altro. E poi fa tanto lavoro di volontariato. Nati per leggere. Nati per leggere, questo lo diremo alla fine, perché è una delle attività che proprio più ci piace e che facciamo anche volentieri, dagli anziani nelle case di riposo appunto ai bambini. Quindi qui siamo di fronte al tuo quarto libro. Sì. Insomma, uno dice, ma chi è sta Queller? Oh, poi si scopre che ha scritto già quattro libri, insomma, e che è già più di una decina d'anni che scrivi. Il primo che c'è lì l'ho scritto nel 2008, quando mi sono trasferita in Val di Non, e all'inizio mi sono quasi pentita perché è stato un inverno pazzesco, e non so come mai c'era una casetta di fronte a me, io la guardavo, la vedevo e mi ha ispirato quel romanzo lì. Che non è assolutamente un romanzo per bambini, al di là dell'immagine che c'è sulla copertina, si chiama La bambola di pezza. Che c'è là, tra l'altro ho letto che tu scrivi soprattutto d'inverno, quando ti ritiri nel calduccio della casa. Della mia casa, eccetera, questo eccetera. Prima di diventare assessora. Perché adesso non ho veramente più tempo per queste cose, finché non sarò lì non avrò mai tempo di scrivere per queste cose quali? Scrivere? Cioè, non ho per scrivere, questo di leggere ai bambini questo... me lo tengo, ma di poter scrivere qualcosa non c'è proprio. Questo ci dispiace un po'. Comunque, ma sono già 3 anni che sono lì, fra 2 anni si vedrà, insomma. Ah, ecco. Per le prossime lezioni. Allora, P come Peter... Il mistero del barboncino. Uno pensa, il barboncino, ma sarà una storia per vecchiette? barboncini, chi è che li ha? In genere noi vediamo persone anziane che hanno in genere il loro barboncino da far, per fare compagnia, eccetera. No. E invece no, assolutamente. Qui gli anziani non ci sono minimamente. Qui ci sono soprattutto tanti bambini, tanti ragazzi, ragazze, e ci sono poi anche ovviamente degli adulti, insomma. E quindi è un libro serio in un certo senso, no? Sì. Anche se è scritto in modo tale da alternare momenti di serietà, perché qua si parla di bullismo, si parla di anche cause animaliste, si parla di prepotenze. Sì. Quindi insomma mette in evidenza alcune cose che succedono nella società anche oggi, no? Però dall'altra parte ci sono anche momenti così buffi, momenti che fanno ridere, colpi di scena insomma molto particolari, insomma, che alimentano proprio anche la lettura piacevole del libro. Allora, per prima cosa, intanto ecco, è da sottolineare, tre dei tuoi libri parlano di giovani. Sì. Non a caso. Prima di tutto perché tu sei stata un insegnante di scuola elementare. Sì, sono laureata in pedagogia. E poi sei laureata in pedagogia, insomma, quindi diciamo che la tua scrittura non è soltanto una scrittura così di tipo esperienziale, ma insomma c'è dentro anche uno studio pedagogico, quindi quando tu delinei i personaggi, i loro comportamenti, sicuramente è dovuto anche probabilmente alla vita che tu hai vissuto anche come insegnante, ma penso proprio anche agli studi che ci sono dietro, insomma. Sì. Giusto. Per esempio, quello che c'è lì alla carica, io ho fatto, giusto per aggiungere qualcosa al mio curriculum, io ho fatto per 3 anni la volontaria in una biblioteca. Quando sono andata a abitare lassù per riempire le mie giornate, facevo la volontaria. E questa storia me l'ha proprio ispirata un ragazzino che veniva tutti i giorni in biblioteca e che lui impazziva, come del resto mia nipote che è lì per i libri, mentre altri ragazzini venivano, a quei tempi non avevano smartphone, e se trovavano il computer occupato andavano, sai, in fibrillazione per il... E lì mi ha ispirato questo libro, in cui appunto c'è proprio una lotta tra i personaggi della fantasia che in biblioteca escono dai libri, perché mi piace tanto mescolare, come in questo, la realtà, però delle cose che nella realtà non potrebbero succedere mai, perché non potrebbe mai succedere che i personaggi di fantasia uscissero dai libri. E lì c'era proprio la lotta tra questi personaggi, che un losco individuo di nome Mirko Softa, azionista della smanetta Tech, voleva far scomparire dalla faccia della terra. Quando io l'ho scritto, la lotta non era ancora conclusa, e quindi nel mio libro vincono i libri, vince la fantasia. Oggi purtroppo io penso che il finale non sia proprio quello, perché è la realtà, no? Di tutti i giorni, ecco. E qui uguale. Cioè, ho voluto parlare di bullismo, però quello che accade, poi ne parleremo, no? Al bullo è una cosa che, cioè, ti porta al di fuori dell'angoscia che provi quando senti certi argomenti, no? Mi piace far capire delle cose senza angosciare le persone, ecco, per quello che mescolo. E poi mi vengono queste idee, perché appunto non lo so da dove sia nata l'idea di quello che succede a sto Pierpaolo Tassi. Ah, non sai, nel senso che non avevi neanche l'idea che sarebbe successo così quando ti sei messa a scrivere? No, posso solo specificare una cosa, no, perché io ho visto tante interviste di scrittori che dicono: quando io inizio a scrivere io so tutto quello che deve entrare nel mio libro. Io non sono così, io non so, mi viene un'idea, così come quella della casetta lì, mi salta in mente un'idea e in automatico vedo già la finale. È così nella mia testa, e poi da questi due punti piano piano mi entra tutto il resto, no? E a volte in corso d'opera mi cambiano anche i personaggi, perché anche qui c'era una soprano che non era quella che c'è nel libro, perché era russa all'inizio. meglio così che non la russa. Sarebbe e stato poi, il tema. E invece poi vedendo un servizio su Pavarotti, su Mostar, così è diventata bosniaca. Bosniaca. Ecco. Quindi io onestamente l'idea di questo bullo che avrebbe avuto questa punizione ce l'avevo, però non sapevo. E poi il problema grosso, sai qual è stato? Nel finale di farlo tornare come era prima. Questo. Voi non capite, però adesso chissà, lui vi spiegherà. Chissà. No, questo non lo spiegheremo mai. No, come quello no, però io che non avevo questo problema grosso. Quindi vedete com'è facile fare gli scrittori? Basta cominciare. Si mette lì una frase, tira l'altra, come le ciliegie, se ne mangia una, poi le noccioline, no? E si diventa scrittori. Noi ci diamo tante arie, ma in effetti ognuno lo può fare, vero? Penso di sì. Poi bisogna avere il risultato. Perché io per esempio ho un quinto libro che era nato metà prima di questo, ce l'ho ancora lì nel computer, che mi sono resa conto subito che si può dire che era forse una parolina schifezza, cioè. Sì, no, sono andata avanti un 40-50 pagine, poi ho capito che proprio non va. No, è ancora lì e rimarrà lì per l'eternità, per dire. Quindi non è così semplice tirare fuori l'idea giusta. Chissà. Il libro incomincia con un particolare incipit. Uno lo legge e si chiede, almeno Italo l'ha letto, e si è chiesto, ma cosa c'entra sta roba? Ma chi è? Cosa succede, insomma? E poi ha capito, e io ve lo faccio capire subito perché sennò bisogna mettersi qua a leggere il resto del libro. Si tratta della mamma del protagonista positivo, diciamo, no? La mamma di Luca, che si chiama Anna, che all'inizio, insomma, è una donna che viene descritta come donna teledipendente, quindi sempre lì appiccicata alla televisione, anaffettiva, che proprio non dà segni di affetto al proprio figlio e alla propria figlia, e catatonica addirittura, insomma, no? E a un certo punto riceve una telefonata. Drin, drin, drin. Pronto? Chi? Ah, la professoressa Baroni. Ah, certo che so chi è lei. Sì, buongiorno. Sì, ha ragione, non ci siamo mai viste. Di solito è mia madre che si occupa di queste faccende. Cioè, sua madre, praticamente la nonna dei figli. Volevo dire delle questioni scolastiche, degli incontri con gli insegnanti dei miei figli. Non so se capita anche a lei che arrivano le nonne invece che i genitori. Di tutto. No, non sono così impegnata col lavoro, ho problemi di salute, anche piuttosto gravi. Ma come sarebbe a dire che non le risulta? Ma come si permette? Ma certo che sto male, e le giuro che faccio tutto quello che le mie precarie condizioni fisiche mi consentono. Cosa? Assistenti sociali? Non dirà sul serio? No, la supplico, non lo faccia, lo so, ho sbagliato, ma mi dia la possibilità di rimediare. Non mi crede? Le giuro che farò tutto quello che mi consiglierete, mi curerò. Ma la prego, gli assistenti sociali, no, va bene, andrò anche dalla psicologa. Incontrarci? Ma mi dica lei, quando e dove vuole, ci sarò, non si preoccupi, la saluto, a presto. Ecco, questo è importante, e questo fa capire anche il modo di scrivere di Cristina, che crea dei colpi di scena, e come si dice sempre, gli sceneggiatori dei film dicono che in ogni film ci deve essere come minimo, ci devono essere due colpi di scena, se no il film non funziona, no? Qua ce ne sono colpetti di scena, e uno è proprio questo, insomma, che poi appunto qui si tratta di una madre che pian pianino poi invece cambia comportamento, e quindi, come dicevi prima, finisce un po' piuttosto positivamente, insomma, no? Si può dire anche perché è ridotta in queste condizioni? Vuoi uno spoilerare? No, ma direi proprio di no, sì. No, praticamente questa donna non riesce, non è mai riuscita a superare la fuga del marito. Lei ha lasciato il marito in casa col bambino, è uscita con la figlia, e quando torna il bambino è lì che guarda la televisione e dice: dov'è tuo padre? È andato a prendere le sigarette. Ma il papà non ha mai fumato, no? Non ha mai fumato. E da quel giorno lì il marito non scompare, non lo vedrà, ma non lo vede mai più per un bel pezzo del libro. E se n'è andato con una sciampista cingalese che lei odia, no, Anna? E quindi lei da lì, invece che avere una rea... Come ti è venuta in testa? Una sciampista cingalese. Cioè, con tutte le donne, donnine, una sciampista cingalese. Come ti è venuta? C'è qualcuna che ti ha ispirato? No. E niente, appunto, lei invece che reagire per anni, così, lei diventa proprio un vegetale. E soprattutto Luca non lo guarda neanche, perché lui è proprio, assomiglia tantissimo anche al padre, quindi lei riversa un certo odio su sto bambino. E se non ci fossero veramente i nonni che l'aiutano e nascondono tanto, appunto perché non intervengono i servizi sociali, non so che fine avrebbero fatto questi due bambini. Poi quando veramente la mettono di fronte al fatto, adesso o fai qualcosa oppure gli assistenti sociali arrivano, allora lei ha uno scatto di orgoglio e cambia piano piano, si riprende in mano la sua vita, si cerca anche un lavoro e insomma. Ma del resto questo incide anche su Luca, no? Il figlio, sì, che essendo tra virgolette orfano, possiamo considerarlo, sì, no? Sì, sì, perché aveva 5 senza anni padre, quando il papà è andato via. Quindi non a caso ha una personalità ancora un po' debole e quindi ovviamente oggetto facilmente di bullismo. Sì. Quindi insomma, qui hai proprio delineato i due personaggi chiave. Uno è Luca, l'altro è il bullo. Il bullo o chi fa le veci anche del bullo, no? Perché il bullo si serve poi di un ragazzo molto robusto che ovviamente gli fa tutte quante le angherie possibili. Sì. Però anche l'altro protagonista è orfano di mamma. Lui è proprio orfano di mamma. Però, cioè, lui, che poi devo dire la verità, anche questa cosa, cioè io qua ho un po' di fogli che mi sono andata un po' a cercare meglio sul bullismo, ma questo non prima di scrivere, questo dopo. Quindi mi sono proprio resa conto che questi due ragazzi inquadrano veramente la tipologia, no? Perché i bulli, in generale, i bulli sono... o sono veramente, vengono da una situazione disastrata, da una famiglia che magari non esiste, o dove già loro in famiglia vengono bullizzati e nella famiglia vige la regola che con la violenza si ottengono le cose. Dall'altro lato ci sono invece figli di persone anche molto influenti, come questo Pierpaolo, il papà è un imprenditore, hanno una villa. L'abbiamo ambientato, il libro è ambientato a Bolzano perché ci tenevo, vivono nella zona alta, zona Guncina, così, però è cresciuto solo attorniato da domestici, da tate, eccetera. E lui invece, che è proprio quest'altra tipologia, per accrescere il suo prestigio e la sua potenza, anche lui fa il bullo. Quindi o fa il bullo chi è disastrato, chi ha una situazione disastrata, oppure chi invece non avrebbe bisogno di fare il bullo perché ha già tutto. E questo Pierpaolo, che secondo me è anche un po' vigliacchetto, perché più che altro lui riesce ad attorniarsi di un gruppetto, che anche quelle sono tipologie, no? Perché sì, chi è che viene bullizzato? Chi ha una caratteristica fuori dal normale, che può essere come quella di Luca nel bene, perché Luca è un bravo ragazzo, va bene a scuola, in casa è quasi fa lui il capofamiglia, oppure altri ragazzi che reagiscono alleandosi con il bullone, col bullo grosso. E infatti abbiamo il, si può dire ancora oggi grasso, scusate, non so se avete letto di Dahl, ecco, si può dire grasso o devo dire diversamente magro? No, scusa, grasso. No, perché stamattina quando lei, comunque c'è il ragazzo grasso che viene sempre bullizzato e quindi si allea con Pierpaolo, perché se lui sta con Pierpaolo nessuno gli dice più che è una balena spiaggiata. Poi c'è quello che ha il padre pieno di problemi in cassa integrazione, che passa il tempo al bar internazionale a bere. C'è un altro ragazzo che, e questo l'avevo, questo posso dirlo, che l'ho preso spunto da una vicenda vera, non so, l'avrete sentito tutti un paio d'anni fa, di un ragazzo che è stato talmente preso in giro perché portava un paio di pantaloni rosa, adesso già anni fa, che si è ammazzato, no? Sì, sì. E quindi io tra le tipologie di ragazzi ne ho messo uno che viene preso, che è bersaglio degli altri perché va a scuola con una sciarpa con del rosa, dei colori così da femmina, no? Che gli ha fatto la nonna. E quindi poi ci sono due che stanno con lui per non, proprio perché no, io non voglio essere bullizzato, quindi vengo con te a bullizzare gli altri. E quindi lui ha questo gruppo di ragazzi che quando lui dice una cosa loro la fanno, no? In cambio lui li fa andare nella sua villa, se hanno bisogno di soldi, ok, lui glieli presta. Ma nella tua esperienza di insegnante hai trovato bulli? Hai vissuto il bullismo? No, io devo dire no. Ma io sono parecchi anni che sono a casa da scuola e forse loro ne sanno qualcosa di più, loro due che sono attive sul campo, vero? Sì. Poi oggi si discuteva proprio con lei, ditemi voi che siete tutte nel campo delle... Allora, c'è il mio nipotino piccolo che viene a scuola, dalla scuola primaria, con un... gli fanno dei... Sì, scuola dell'infanzia, scusate. Viene sempre con... c'è un ragazzino, un altro bambino che gli fa dei dispetti, gli allaccia i pantaloni, lo spinge. E io avevo letto che sono in aumento i casi di bullismo proprio nella scuola dell'infanzia. Mia figlia mi dice, ma secondo me quelli sono troppo piccoli per essere bulli. Come li definireste voi questi bambini che comunque... Una parola che non si può dire. Diversamente educati. Diversamente educati. Diciamola così. Perché però hanno questo atteggiamento continuo, ha capito che non è più un dispettino, ecco. Sono andata fuori dal seminario. No, anzi, assolutamente, insomma. I piccoli eventi quotidiani assumono grandi significati, comprendendo il legame che c'è tra voi e tutto ciò con cui entrate in contatto, idee, persone, oggetti, acquisterete grandezza. Questo l'ha detto Stella Adler, docente di recitazione negli Stati Uniti, e questo mi sembra che si adatti anche alla tua narrazione, no? Perché è proprio partendo dalle piccole cosette che succedono. E quindi è una realtà proprio quotidiana che può succedere, e però da lì trae spunto per parlare di temi importanti dal punto di vista sociale. Anche perché, cioè, ci sono tanti temi che secondo me sono molto importanti nella quotidianità. Per esempio, dove vive uno vive nella villa, dove vive Luca? Luca vive in palazzone in cui si mescolano persone di varie culture, varie etnie, dove si litiga per l'odore che esce del mangiare dalla porta dei pakistani, e lui vive questa realtà, no? E in questo condominio, per esempio, una figura che mi piace tanto è la zia di Ginia, che è una haitiana, no? E che tutto il condominio pensa che questo donnone, cioè, quindi c'è la discriminazione, sia una persona che fa voodoo e cose di questo genere, mentre è una persona carinissima che ha preso la nipote rimasta orfana nel terremoto di Haiti, e quando la vedono uscire sempre alla stessa ora non è che vada a fare i riti voodoo, ma va a partecipare a un corso di italiano e sa parlare meglio degli italiani stessi, no? E comunque è molto carino il fatto che Luca, anche lui, ha sentito queste voci, no? Di questa donna grossa che gira con nella borsa gli spuntava una testa, e la ma invece è una bambola per la è una bambola voodoo, che va dalla sua amica Ginia, no? La nipote, gli dice: per favore, potresti chiedere a tua zia se fa tornare il mio papà, no? E lei gli risponde: sì, perché questa ragazzina ci marcia, no? Sì, mia zia lo può fare, però sappi che per farlo ci vogliono 100 euro e un paio di mutande di tuo padre. E lui dice: sì, forse le mutande in qualche cassetto in soffitta le trovo, però i 100 euro no, insomma, no? Ci avviciniamo un po' alla questione del barboncino, sì, che non abbiamo ancora che parlato comunque del barboncino. Non, ti correggo, perché adesso non ce l'hanno i vecchietti, perché è diventato un cane di moda, giusto? Tantissime persone, se tu fai caso, hanno il barbone. E quando io ho iniziato a scrivere, non ho scelto il barboncino perché era di moda, perché non so perché, anche lì mi è venuto: che cane mettiamo? Un barboncino color champagne. Però adesso è proprio di gran moda, eh? Devo aggiornarmi allora. Eh sì. Sì, sì, perché io conosco un sacco di gente che si è presa il barboncino e non è vecchia. Allora, ci avviciniamo un po' al tema dei cani, comunque degli animali, diciamo, perché il bullismo non è fatto soltanto sui cristiani, ma ahimè è fatto anche sui cani, e c'è qualcuno che i cani li vuole anche avvelenare, uccidere, eccetera. C'è sempre questo bullo, sempre parte da questa, sempre da questo centro di bullismo, e quindi anche il collegamento col barboncino è il collegamento anche con questo tema, giusto? Sì. Qui ci sono dei ragazzi volontari che vanno sempre nei canili a... Sì, Luca è proprio... Luca con la sua amica Ortensia, loro vanno regolarmente ad aiutare nel canile, no? Uh-huh. E mentre d'altra c'è Pierpaolo, che è un mezzo sadico anche un po', no? All'inizio è proprio se la prende con gli animali, prima di passare ai compagni di classe, perché... Non se la prende solo con Luca, eh. C'è una ragazza pakistana che loro dicono che puzza e la riempiono di spray, uh-huh. e ce l'ha proprio anche con gli animali, con i cani, no? Uh-huh. Quindi c'è proprio anche qui Luca che va nel tempo libero insieme ad Ortensia, ed anche qui è un messaggio, perché Ortensia di chi è figlia? La ragazzina è figlia di madre sinta e padre italiano. Quindi anche lei, per colpa delle sue origini da parte di mamma, viene parecchio bullizzata dal gruppetto qui. E i cani hanno una grande importanza nella storia. Non so se vuoi dire tu perché o... No, dillo, dillo. Cioè dobbiamo dire che cosa avevamo detto, lo spoileriamo, non lo spoileriamo? Ah, no, allora, momento. Allora, arriva, perché c'è una copertina con una stella cadente, giusto? E non possiamo andare avanti senza dire chi è l'autore della copertina. L'autore della copertina? Di tutte le mie copertine. Ah, no. È seduta lì in prima fila. È mia figlia. Ah, complimenti. Complimenti. E il castello? Fatto io. È di fantasia. Ma il castello rientra dentro nella trama? La villa. È la villa, sai che c'è il torrione? La villa che ha il torrione con le tegoline così. Mi sfagiolava, allora adesso tutto quanto è compreso bene, chiaro. Allora arriva il momento delle stelle cadenti. Luca alza gli occhi, quasi a chiedere aiuto. Nella calda notte d'agosto il cielo turchino, puntolato di stelle lucenti come diamanti, avvolgente nella sua immensità, lo fa sentire un minuscolo moscerino in balia degli eventi e degli aguzzini. In quel preciso istante la scia luminosa di una stella cadente appare nel cielo. All'improvviso si alza un vento leggero. Il cielo si anima di una, due, tre, 100, 1000 stelle cadenti, una miriade di stelle cadenti, uno spettacolo che lascia senza fiato e spaventa. Sembra proprio che tutti gli astri celesti si stiano tuffando sulla terra. Sembra proprio che, scusate, il vento diventa impetuoso, le stelle continuano a cadere, mentre vortici di polvere si sollevano sotto il porticato e feriscono gli occhi. Il vento maestoso ulula, quindi è anche poesia, leggiamo, brava, complimenti. Grazie. Cristina. Il vento maestoso ulula, lancia cupi lamenti simili a quelli di una fanciulla prigioniera, sradica un albero in mezzo al parco, un pezzo di grondaia mal ridotta si stacca dal tetto e colpisce poi Luigi. Ed ecco che il vento a un certo punto poi scema, piano piano anche la pioggia di stelle si affievolisce fino a sparire. E a un certo punto si chiedono: ma dov'è Pierpaolo? cioè il bullo è sparito. Però dovevi dire che stavano facendo proprio un brutto gesto, sì, di bullismo, no? Sì, se vuoi dirlo anche tu, chiarirlo, cioè, anche tu, solo sì, sì, sì. Che lui esprime il desiderio, magari. Sì, sì, appunto. Cioè, hanno superato ogni limite, qui stanno per compiere veramente un'azione bruttissima, sempre nei confronti di Luca, e hanno coinvolto anche la sorella. E lui, disperato, vede questa stella cadente, si ricorda quando era piccolo che vedeva le stelle cadenti e chiedeva continuamente questa cosa: vorrei che la mia mamma tornasse come era prima, no? E qui, nella disperazione di quello che sta succedendo, l'unico desiderio che esprime è, cioè, il bullo Pierpaolo lì di fronte e tutti gli altri intorno, e dice: io vorrei tanto, e c'è un motivo per cui lo dice, no? Però non vi spiego cosa gli volevano fare, se no vi dico tutto. Gli dice: vorrei tanto che tu diventassi un cane indifeso. E in quel momento che lui dice questa frase, scoppia tutto questa miriade di stelle cadenti, cioè succede questo evento particolare, che ovviamente è un evento fantastico, e alla fine di tutta questa cosa succede. Pierpaolo non è più lì in mezzo agli altri bulletti, che rimangono molto sconcertati perché lui non c'è. Sul comò bianco, in stile provenzale, una lampada schermata con foulard di seta rischiara la stanza buia. La finestra è aperta, una leggera brezza muove il fazzoletto che, ondeggiando, crea magici giochi di luce. Accanto al grande letto d'ottone troneggia una cesta di vimini intrecciata a mano. Cos'è questa puzza? Che solletico! Ma chi mi sta toccando la pancia? Ma per favore, via le mani dai miei... Sono sei, eppure Olga ha partorito 5 cuccioli, tutte femmine, lo ha fatto davanti ai nostri occhi, e adesso sono 6 e uno è un maschietto, spiega sconcertato il dottor Sandri a Maira, la cantante lirica. Recuperati i cuccioli dal portiere, la cantante è tornata nell'attico e ha chiamato il veterinario. Certo che sono un maschio, smettila di toccarmi proprio lì. Pierpaolo alza una mano per allontanare il palpeggiatore sconosciuto. Oh santo cielo, dov'è finita la mia mano? Questa è... oddio, è una zampa! Prova a urlare, ma alla bocca esce solo un flebile. Bau, bau, dove sono? Che cosa succede? Pensa. Bau, bau. Fissa con angoscia gli alti bordi della cesta in cui giace, mentre alcuni orridi cuccioli di cane si strusciano contro di lui, lo mordicchiano e guaiscono. Il terrore lo assale, gli manca il respiro. Calma, calma, sto vivendo solo un brutto sogno. Tra poco mi sveglierò e sarò tranquillo nel mio letto. Ma invece non è un sogno. No. Pierpaolo il bullo è diventato un piccolo barboncino. Ed ecco qua il barboncino che diventa protagonista. Però siamo solo a pagina 70. Non si può più dire niente. Però. Poi c'è tutto il resto. Sì, deve arrivare fino a pagina 341. Quindi di colpi di scena ce ne sono. La storiella ha un largo intreccio, insomma, no? Sì. Ecco. Più di così non si può rivelare, perché sennò... Più di così non si può rivelare, però che... ecco, c'è questa, il momento in cui la scrittura tua da realistica, perché tutto il resto è proprio descrizione di una realtà così come può succedere tranquillo, diventa magia un po', no? Diventa... Sì. Fantasia proprio. Però poi il seguito riprende la realtà, lui ovviamente rimane barboncino, lui è solo la cosa che non è reale, nel senso che lui è un barboncino, ma poi tutto quello che accade dopo rientra di nuovo nella realtà, insomma. E realtà che, appunto, la difficoltà sarà: ma questo qui rimane barboncino per sempre o tornerà umano? Chi lo sa? Questo non si può dire. Però qui ho trovato che sei veramente una copiona. Dai. Anche vero? Pinocchio, dice la signora. Pinocchio? Anche giusto, no, non ci avevo pensato a quello. Invece io avevo in mente la Metamorfosi di Kafka. Capito. Certo che un conto è trasformarsi in un schifoso insetto e un conto un bel barboncino color champagne, è tutta un'altra cosa. Certo. Però insomma... Però poi la motivazione per cui è diventato un barboncino era proprio perché lui i cani li odiava e... Sì, e questa situazione quello, si era creata perché avrebbe voluto fare del male a degli altri cani, non vi sto a dire perché, però, ed è giusto che diventi un cane. Porca miseria. E l'unica cosa che posso dire, no, se la dico tra già troppo. No, la cosa più importante... No, non la dico, però no, basta, ecco, se no non è bello. La cosa più importante è il tema della trasformazione. Perché che ci si trasformi in un insetto, che si trasformi in un asino, che ci si trasformi in un barboncino, però ecco, come scrive Carla Birzì, che ha scritto, è anche una che si interessa di sceneggiature, di film, eccetera, no? Ha scritto sullo storytelling e dice che trasformazione e tema costituiscono i due tratti importanti della narrazione. I grossi fari che accendendosi ci permettono di entrare in porto. Quindi una storia che avvince è sempre una storia che ha delle trasformazioni. Quindi prima anche c'è una vita normale, poi succede sempre qualcosa, naturalmente di brutto, e poi ci si trasforma comunque grazie a questa... ai problemi, ai pericoli, ci si trasforma. Ma poi qui la trasformazione, cioè tipo Pinocchio se l'è cercata lui, ha fatto delle cose, qui è proprio il desiderio di Luca che finalmente dopo mesi, anzi direi anni di vessazioni ha questa, esprime questo desiderio che diventa realtà. E quindi da lì cambierà tutto, perché il leader è scomparso. Basta, non dico altro. Sì, però anche lui se l'è cercata, nel senso se l'è cercata. Fa del male e va all'inferno, quindi è giusto diventa che diventa un barboncino, insomma. Ecco, diciamo che ci fermiamo un po' qua sulla trama, no? Sì. Invece adesso parliamo anche della tua scrittura. Intanto la cosa molto bella di questo libro è che è scritta, quello che piace molto a me, che faccio anch'io, è che è scritta sempre in capitoletti brevi, così uno magari va a letto, se lo legge, finisce un capitoletto e dico, oh, domani continuo. Se no un capitolo lungo che non finisce mai, è sempre una roba in sospeso, invece qua, quindi attira un po'. Io che vado in bicicletta, quando faccio le salite leggi vado in bicicletta. Sì. Scherzavo, E quando ci sono le in salita, le curve ovviamente sono una cosa che ti stimola che continuamente. No? Se ci fosse tutto un rettilineo lungo, alla volta super la mendola, c'è un lungo rettilineo, ti dice ma vado avanti ancora o no? Insomma, lo stesso vale quando si legge un romanzo. No? Ecco, quindi mi pare anche strutturato bene, insomma, e ovviamente capitoli, se ci sono capitoletti vuol dire che ci sono anche delle storie in ogni capitoletto in cui c'è un inizio, c'è una fine, in fondo sono insieme di piccoli racconti, no? Tutto sommato, e quindi alimenta la lettura. Lo fai apposta, volutamente, questo? Guarda, io tutte queste cose tecniche mi vengono così, cioè io non è che io inizio poi finisco. C'è un talento personale. No, un talento. Onestamente non è che io mi pongo il coso il problema di come tutto deve durare, mi vengono così, capito? No, ma posso dirlo che non ho una tecnica, perché lui, dovete sapere, lui invece, io sono stata un giorno con lui tutta un'ora, che mi ha fatto quasi una bella lezioncina su come scrivere un racconto breve, ho imparato tantissimo. Io sono istintiva, ecco, si può dire? Cioè io scrivo e quello, così è venuto il libro. Sì, ma devo dire che nel tuo istinto hai una scrittura molto piacevole, molto scorrevole, devo dire, insomma, e anche piena di dialoghi, quindi veramente prende e non annoia proprio per niente, insomma. Grazie. E quindi anche i dialoghi bisogna saperli fare, nel senso che tu hai messo nella trama un sacco di personaggi, ma ogni personaggio deve avere il suo linguaggio. Quando si fanno i dialoghi, non è che i dialoghi ripetino sempre lo stesso stile, no, linguistico. E quindi vedo che c'è questa presenza, quindi anche questa immedesimazione da parte tua, insomma. Quindi infatti c'è anche qualche parolaccia, io non ho il dubbio, però quando faccio parlare sti ragazzini di prima superiore che frequentano il Galileo Galilei, cioè quando parlano fra di loro è così, ogni tanto gli scappa sta, cioè se no Corbezzoli, non posso io scrivere Corbezzoli. Ci sono quelli, infatti mi sono chiesto, ma lo devo scrivere o lo devo scrivere quando gli esce quelle due tre parole, insomma. Però se il personaggio è un ragazzino che fa la prima superiore, è un ragazzo di prima superiore, penso che la parolaccia possa dirla, no? E le mie amiche, adesso cambiando discorso, prima ridevano quando abbiamo parlato della Baroni, vero? Perché avete riso? Perché era la nostra professoressa di filosofia delle magistrali. E io ho tanti nomi dentro, ecco, che sono qua dell'inizio. Sì, sì, era la nostra profe adorata di filosofia. E Luca e Isa sono due miei cugini che non ci sono più. Ho voluto mettere i loro nomi. C'è anche il cagnolino Cody, che è il mio cagnolino personale. Questo l'ho scoperto alla fine, sì. Ortensia. Ortensia me l'hanno ispirata queste signore che avevano a scuola una ragazzina, Sinta si dice, che tra il resto erano anche scappate queste due sorelle di casa, sono andate a finire anche su Chi l'ha visto, e lei mi parlava sempre di questa Ortensia, no? E ho messo Ortensia, mi è venuto quel personaggio lì, ecco. Ma è bello, no? Perché in effetti è questo, è la vita che ispira la soprano, appunto. Una sera io ho visto un programma che parlava di Pavarotti, che ha fatto a Mostar un grande centro che mi sembra che si chiami Musiaki Center, per riportare i ragazzini e le ragazzine dopo la guerra a imparare a cantare, a suonare, e quindi la soprano, che era russa, l'ho trasformata in una ragazzina che stava lì a Mostar quando Pavarotti ha inaugurato questo centro, che ha frequentato il centro, è diventata una grande soprano, ed essendo venuta a cantare a Bolzano si è innamorata della nostra città mitteleuropea e si è trasferita qui. Quindi tante cose sono comunque prese dalla realtà. Sì, anche il casermone di Via Druso me l'ha ispirato un po' alla mia casa, che non era proprio così, ma il mio casermone di Casa Ferrovieri, che io abitavo in Via Resia. Cioè, capito, ci sono tante cose che si riallacciano alla realtà. Ma ecco, è molto particolare anche il fatto che ci sia un intreccio continuo di fatti e di personaggi. Ma com'è che fai a tenere a bada? Perché bisogna non contraddirsi in un romanzo di 350 pagine. Lo so, è complicato. E tu dici che non ti metti lì anche a... No, man mano che scrivo io prendo appunti, no? Man mano che scrivo mi segno il personaggio, com'è fisicamente, com'è caratterialmente, cioè mi scrivo tante cose, perché sennò ti puoi contraddire veramente, no? Nelle qua, cose. Non ho visto e poi mi capita, riguardando, che qualcosa non torna, poi ripeto, lei sì, è la prima che deve leggerlo, e da brava professoressa mi corregge, mi dice: no, ma lei avresti dovuto caratterizzare un po' meglio quello lì, guarda, e mi dà il voto. E di solito, insomma, ci lavoro un bel po', non è che, cioè, e più lo guardi più trovi qualcosa che dovrebbe cambiare anche, no? Ecco. Ma questo è un libro che da una parte è un libro di svago anche, no? E dall'altra parte è un libro serio anche. Ma tu quando l'hai scritto, cosa pensavi di più, un lato o quell'altro? Mi sembra di essere dallo psicologo. ma no, io volevo lanciare un messaggio e credo di esserci riuscita, perché mi è capitato su in Val di Non, perché io vivo a Romeno appunto, di parlare con dei cugini, dei ragazzini di quinta elementare, prima media, che l'hanno letto, hanno voluto, mi hanno espressamente chiamato, erano in vacanza su, volevano parlare con me e io ho chiesto loro qual è la cosa che, perché mi hanno chiesto tante cose, volevano sapere, poi gli ho detto ma qual è la cosa che vi è rimasta impressa in questo, e loro mi hanno risposto quello che io veramente volevo ottenere, mi hanno detto questo, se ci dovesse capitare, sono due figli di un medico, un avvocato, cioè personcine che penso che non abbiano ancora mai avuto di questi problemi, che se ci dovesse succedere dovremo immediatamente chiedere aiuto a qualcuno, e questo è il messaggio più importante che io volevo lanciare, perché in questo libro finché Luca non si decide a dire a qualcuno che ha questo problema non ne esce, e la mamma all'inizio manco si accorge che ha i lividi sulla schiena, no? Perché torniamo alla mamma, quindi il messaggio che io volevo lanciare era quello, è per quello che adesso ho in progetto su di presentarlo a fondo, mi ha detto la bibliotecaria, con dei ragazzi vorrei, perché proprio è quello che deve venire forte e chiaro, e anche a livello di bullismo, e soprattutto anche adesso che c'è il cyberbullismo, anche i genitori qualche volta o non se ne accorgono neanche, no? Perché i segnali non li vedono, oppure soprattutto nel cyberbullismo minimizzano, magari invece non bisogna assolutamente minimizzare, rivolgersi subito alla polizia postale o al questo, insomma bisogna fare qualcosa, perché poi abbiamo visto tutti dove sono andati a finire certi ragazzi o ragazze, no? Cioè che si ammazzano. E questo è il messaggio che io volevo lanciare, divertendo, perché poi se uno piacciono gli animali, ci sono una serie di cani in questo canile bellissimi e... Ecco questo. Mi pare che si veda che tu ami un po' i bambini, i ragazzi, i giovani, eccetera. Cioè, tanto. C'è un continuo, no? Da quando facevi l'insegnante a oggi, anche che scrivi appunto di loro, insomma, sì. Anche 3 libri su 4, eccetera, riguardano, quindi ti stanno particolarmente a cuore. Io non so se l'ho scritto qua, no, qua forse no, o sì. Che per me, io cosa faccio io nella vita se ho scritto. Ex insegnante in qualità di lettrice si dedica anche al mestiere più bello del mondo, che è quello della nonna. No, vabbè, io purtroppo sono lassù e da quando sono assessore lei ha perso un po' la mamma aiutante, la baby, per l'emergenza nonna. Arrivo, ma così dai. Infine mi piace parlare di una cosa che tu hai fatto e fai, mi pare ancora, tu hai partecipato nel Trentino alla, com'è che possiamo dire, all'attività del Nati per Leggere, sì. No? A questa azione bellissima, quindi di insegnare, di leggere ai bambini. Oggi noi sappiamo che la lettura purtroppo nel nostro paese è molto scadente, oggi il 50% della popolazione non legge neanche un libro e i lettori, come si diceva anche prima, anche ieri ho litigato si fa per dire con il nostro socio che è convinto che i giovani non leggano, invece no, i giovani fino a 18 anni leggono, i giovani fino a 18 anni e le donne leggono meno di tutti gli anziani, paradossale. L'anziano che è in pensione deve avere più tempo a disposizione e invece purtroppo non legge, no? E poi gli adulti ovviamente fanno la loro vita. Ecco, quindi questo tuo amore per la lettura diventa anche un'azione sociale, un po' come facciamo anche noi nelle case di riposo che andiamo a leggere, eccetera. Insomma, peccato che tu non sia a Bolzano. Lo so. Ecco. E a Bolzano si chiama, com'è che si chiama? È la stessa cosa, no? Noi, io ho fatto dei corsi e poi vado, adesso appunto un po' meno, però tipo a fondo mi hanno supplicato di non lasciare, quindi io vado, vengono i bambini di 3 anni, sono andata anche al nido, cioè vado a leggere. E la cosa importante, perché quando io ho fatto questi corsi ho sentito da esperti delle cose che mi hanno lasciato a bocca aperta di come il cervello di un bambino a cui si incomincia a leggere già nella pancia della mamma sì, ha uno sviluppo quando... che un bambino che, a cui non, e io non voglio adesso vantarmi, ma un esempio ce l'ho proprio davanti agli occhi, perché cioè lei finché abbiamo iniziato a parlare aveva il libro in mano, lei non ha il cellulare in mano ma un libro, no? E proprio il linguaggio e tutto, e come prima cosa che io ho fatto quando sono diventata assessore alla cultura, io sto portando molta, non voglio dire, però sto portando molte innovazioni nel comune a livello proprio culturale. La prima cosa che ho detto al sindaco, io vorrei fare, e l'ho fatta, quando vengono all'anagrafe a descrivere uno dei bambini appena nato, noi gli regaliamo un libro con dentro, proprio ho preso tutto lo spunto da Nati per leggere, il perché non ti regalo dei pannolini ma ti regalo un libro. Che non serve da pannolino comunque. No, spero di no. E ti invito tutti i giorni a impiegare, perché non è perdere del tempo quando li metti a letto che leggi, è un regalo che tu fai al tuo bambino. Sì. Quindi questa per me è una cosa veramente importante. Sembra che un bambino che ha la mamma che legge fin da piccolo, fin dalla pancia, quando va a scuola ha già un 10% di rendimento medio in più rispetto agli altri bambini. È vero. Per esempio. Ma poi non parliamo delle... questo da un punto di vista così intellettuale, no? Cognitivo, ma da un punto di vista emozionale, anche se la mamma veramente sa leggere anche bene e quindi sa trasmettere fin da piccoli le emozioni, sappiamo benissimo, oggi si parla di intelligenza emotiva, e quindi che il bambino impara a riconoscere le varie emozioni e anche ad esprimerle. E questo varrebbe soprattutto per i maschietti, perché i maschi imparano fin da subito a reprimere le loro emozioni, a nascondere le loro emozioni, e quindi invece veramente la lettura li farebbe crescere da quel punto di vista, insomma. Sì. Ci sono domande? Provocazioni? Interrogazioni? Un bamboncino con un cane così carino, così tenero, c'è qualche riferimento che poi viene trattato bene? Perché è proprio un bamboncino? No, viene trattato bene perché è un cane. Tanto che dargli proprio il bamboncino, proprio il bamboncino è logico dargli affetto perché è carino. Ma no, il mio cane, per esempio, è un meticcio che viene da un canile. Non è nessuna razza, sì, anzi ha una razza, perché un giorno io ho incontrato una signora per strada che aveva uno di quei cani di razza, lei era tutta, e mi ha detto: ma che razza è quel cane? E io le ho detto, risposto, viene da Napoli, ho detto: razza Caruso, razza Caruso, giuro. E, ma come? Io non l'ho mai sentita questa razza, e gli ho detto: si informi, ho preso il cane e l'ho andata via. Perché no? Cioè, i cani, guarda, sono tutti belli, no? E è un barboncino perché nella storia ci sono già altri 5 barboncini, ma non posso dirvi altro perché sennò... Cioè erano altri 5 è barboncini, non poteva nascere un lupo. Cioè. Color champagne. Color champagne. Color champagne, praticamente color champagne è tipo il, sì, insomma, un giallino. Beige, sì, beige. Sì, come quelli che vedi in giro ogni giorno, che infatti io ho detto: guarda, sembra che ho scelto quella razza perché sono di moda, ma quando avevo iniziato il libro, che per vari vicende è rimasto lì un bel po', era un barboncino, insomma, ecco. Bene. Bene, se non ci sono altre domande, concludiamo qui. Il libro, chi vuole comprarlo, è in vendita, costa 15 euro ed è qui. Grazie, grazie della partecipazione e della presenza. Grazie.